Siete anche voi consumatori compulsivi di video di YouTube? Io ne uso moltissimi, soprattutto per approfondire quegli argomenti che più mi interessano: teologia, spiritualità, attualità, scienza, filosofia, psicologia. Qualunque argomento vogliate approfondire, troverete qualcosa di utile ed interessante. E così, navigando qua e là, mi sono imbattuto in un video in inglese che parlava della frase "non preoccuparti". Quando è che diciamo questa frase? Beh, è ovvio, quando una persona ci sembra particolarmente preoccupata oppure ci parla di un suo problema grave che sta attraversando, noi siamo dispiaciuti di vederlo preoccupato e allora, proprio per tranquillizzarlo, molte volte gli diciamo questa fatidica frase "non preoccuparti". Ma pensaci un secondo: quando tu sei preoccupato profondamente per qualcosa e una persona, per tirarti su, ti dice "non preoccuparti", come ti senti in quel momento? Ti senti compreso? Ti senti capito? La tua preoccupazione svanisce come d'incanto? Oppure ti senti a volte un po' sminuito, come se l'altro non avesse capito in profondità quello che gli stai dicendo, soprattutto come se l'altro non avesse capito in profondità quello che tu stai vivendo, come lo stai vivendo? Certo, lui ti sta ascoltando, tu gli dici che sei preoccupato e lui ti dice di non preoccuparti. Più ascolto di così. Ma qual è in realtà la cosa che desideri di più quando sei preoccupato? Che la tua preoccupazione svanisca come d'incanto? Oppure che tu ti senta profondamente compreso nella tua preoccupazione dalla persona che ti sta ascoltando? Il video di cui vi parlavo all'inizio suggerisce quindi di sostituire la frase "non preoccuparti" con tre semplici frasi. Primo, accidenti, è proprio brutto quello che stai passando. Con questa frase o con una frase analoga, tu stai facendo capire alla persona che sei connesso empaticamente con lui, che stai capendo che sta veramente passando un momento particolarmente difficile. Secondo, sono qui per te. Dopo aver espresso, cioè, la tua comprensione empatica, con questa seconda frase tu gli fai capire che ci sei, che se ha bisogno può contare su di te. Terzo, se avrai bisogno, continuerò ad essere qui per te. A volte abbiamo bisogno di essere compresi, di essere sostenuti, di essere aiutati, ma talvolta abbiamo anche la profonda esigenza di sentire che anche in futuro, se continueremo ad avere questa difficoltà, sapremo che c'è qualcuno sul quale noi possiamo contare. In fondo è ciò che fa il buon samaritano. Non si prende soltanto cura di quel poveraccio medicando le sue ferite, ma lo porta alla locanda e dice all'albergatore che quando ritornerà continuerà ad occuparsi di lui. Quindi la prossima volta che una persona ti parlerà di una sua profonda preoccupazione, metti al bando la frase "non preoccuparti" e prova in qualche modo a sostituirla con queste tre frasi. È proprio duro ciò che stai vivendo e io sono qui per te. E se avrai bisogno, io continuerò ad esserci, puoi contare su di me. Lascia un mi piace se vuoi, scrivi nei commenti che ne pensi, condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella se vuoi ricevere le notifiche su ogni nuovo video che uscirà ogni lunedì mattina.